sentito nessun difetto di Natalino, niente era basso di modulazione, però poi come la sollevata era pulito. Adesso c'è questa specie di fruscio che io pensavo fosse tipo una ventola, qualcosa, tipo quando c'è il finestrino aperto in macchina, che sei al telefono e stai parlando col finestrino aperto. In FM non si fa, uscivi pulito pulito, cioè va meglio in FM che in AM, mentre Gianfranco viceversa, meglio in AM che in FM. Non sta uscendo Natalino, non sei uscito in radio, basso, basso, basso. Guarda, così solleva un peluzzino. Così bene va. Sì, così va bene. Come ti sei di nuovo riabbassato? Ma stai toccando tu il Mickey Gain o che cosa? Il microfono, la rotella del microfono ho toccato e ho abbassato anche il VAT, perché in FM ero forte. Arriva a fondo scala qua, come, vabbè, che qua con questi apparati qua, stranamente in FM, vabbè, sono tarati per l'AM le bande laterali, qua arrivano a fondo scala, anche attenuata arrivavi 9.40. Io ho capito, anche qua arrivavi fortissimo. E com'era la modulazione in AM? Scusa, in FM da parte tua, Natalia, e poi lo chiedo anche a Gianfranco. La tua, bellissima. Nessuna differenza hai notato rispetto alla AM? Natalia? Sì, ho detto che andava benissimo la tua modulazione in FM. E tu, Gianfranco, hai notato differenza di modulazione, parliamo? Tu, Gianfranco, ci sei? Sì, mi hanno chiamato da un'altra parte e ho dovuto rispondere. No, no, scusa, l'aspetto. No, ho detto, se hai notato differenza di qualità di emissione, di modulazione, di tonalità rispetto all'AM quando siamo andati in FM? No, è più, per me è migliore, senza dubbio, in FM in ogni caso. Ma ripeto, l'apparato che è dedicato all'FM, tutto lì. E cosa volevo dire? Prima che mi interrompessero, volevo dire una cosa, non me lo ricordo. Vabbè, pazienza. Vai, Natà. Quella è la vecchiaia, mi chiama. Stiamo diventando vecchi. E meno male. magari è un bel privilegio iniziare a sentirsi che si è vecchi, con i tempi che corrono. E sfogliando ogni tanto quell'ultima vetrina, come dice Masini, insomma, non puoi che essere contento. Ah, io il tuo vaccino l'ho fatto. Anch'io ho ancora il braccio, infatti oggi ho soltanto fatto lavori, come dire, di posizionamento leggeri, tra virgolette, riparazioni varie, perfezionamenti vari, ma non ho completato questa maledetta canala perché di lì c'è la lavora di picco e quindi mi hanno raccomandato di non fare sforzi, quindi né bici né niente, vabbè dai, un paio di giorni si può anche stare, ho fatto in più, possiamo anche fare almeno. A me non mi ha fatto niente proprio questo vaccino, neanche il braccio mi faceva male, né febbre, nessun effetto collaterale. Oh, una domanda, visto che voi l'avete fatto, dove l'hanno fatto? Braccio destro o sinistro? O a casaccio lo fa? Al sinistro me l'hanno fatto. Anche a me, infatti mi hanno chiesto se ero mancino, se mancino probabilmente te lo fanno all'altro. Ah, perché è indifferente, cioè lo posso fare destra e sinistra? Sì, esatto, destra o sinistra, il risultato non cambia, può cambiare per te perché a certa gente le fa un po' male, perché gli si gonfia magari, secondo il tipo di vaccino poi c'è anche problemi col braccio, capito? Quindi per evitarti questo disagio, cioè almeno con la destra può fare le cose, per due giorni è tranquillo, sarà quello il motivo, presumo, perché me l'hanno proprio chiesto in maniera specifica, lei che braccio usa, per esempio, il destro, non è mancino, quindi ok, allora lo facciamo sul sinistro. La puntura è stata sentita, l'avete sentita? Guarda, se uno sente quella puntura, io sento più quella della zanzara che quella lì. Infatti me l'ho guardata, lo stavo per chiedere, ma l'ha fatta? Poi mi sono trattenuto perché ho visto che ha appoggiato la siringa e ha detto lì, tutto a posto. Quindi proprio guarda, non me ne sono nemmeno accorto. E tu la fai? Anche io, una mano santa c'aveva quella facendo le mie più. sentita, guarda. Scusa, ti voglio dare anche la mia testimonianza, Robert, scusate. Beh, tu non ci crederai. Io avevo qualche dubbio che non me l'avesse fatto il vaccino. Ti dirò, Robert, perché non ho sentito niente. Sai cosa vuol dire niente? Ma nemmeno la minimissima puntura, nulla. E io ho fatto la domanda, siamo sicuri che mi ha fatto il vaccino questo? Poi mia figlia ha guardato la spalla, il braccio, l'aveva fatto, e c'è il puntino rosso, questo sì. Però come puntura, come dolore, nulla, nulla di nulla. Continuate pure, dai, che devo ancora cercare. Sì, ok, dai, anche a te sinistra comunque giù. Cosa hai detto, Roberto? Anche a te il braccio sinistro. Sì, sì, a me mi hanno detto, si sieda, vada di dentro, si sieda sulla sedia e mi prepari il braccio sinistro. Io sono andato con una maglietta a maniche corte e con un pullover che si apriva con la cerniera sulla lunga, non ho fatto altro che aprire il maglione, diciamo, dai. Sì, ok. Gianfra e Natalia, voi siete tornati da soli o vi hanno accompagnato? No, io sono andato da solo, e tornato da solo, anzi, siccome non volevo lì stare a diventare pazzo, ho posteggiato, guarda, ho posteggiato dove c'è un euro, ecco, nel posteggio di un euro. L'altra volta ero più vicino, però ho trovato posto solo lì, quindi l'ho messo a un euro e sono andato a piedi, perché gli altri, essendo anche tutti i negozi aperti, erano le 11, erano tutti pieni come posteggio, capito? Quindi me la sono fatta a piedi, andata e ritorno. No, io la vedi se l'ho posteggiato, sono andato a piedi un pezzettino con mia moglie. Siamo andati e tornati tranquillamente. No, ma quello che voglio dire, voi siete andati volontari o vi hanno convocato? No, io sono andato volontario perché praticamente ero prenotato ma non mi chiamava nessuno, come Gianfranco. Solo che la mia dottoressa ha detto vai senza appuntamento che te lo fanno. E così è stato, Roberto. E allora hanno un certificato appena finito o ti arriva dopo qualche giorno? No, ti danno un foglio come che hai fatto il vaccino e l'appuntamento per la seconda dose. Come hanno fatto così? E a te Gianfra? No, dunque, io ho fatto tutte e due le esperienze, quindi sono andato di mia volontà perché lo volevo fare e mi hanno buttato fuori, hanno detto che non era il turno. Sono rimasto un po' perplesso, ho detto ma avete fatto fare la fila, dicono, perché qua in Sardegna a quanto pare siamo un po' tutti particolari, no? Poi già l'avete letto che hanno combinato il cotto di crude. Comunque, fatto sta, me ne sono dovuto andare. Quindi ho dovuto fare la prenotazione tramite il sito delle poste e mi è arrivato subito l'SMS con l'appuntamento qualche giorno dopo. Ci sono andato il giorno dopo che è andato Natalino, se non ricordo male, e praticamente me l'hanno fatto senza problemi, ecco. E tra l'altro facendolo online mi ho scaricato tutti i fogli e li ho compilati e quindi mi è evitato anche la fatica di compilarli. E ho fatto anche, diciamo, più velocemente, ecco, perché di lì poi ti danno loro le penne, eccetera, mentre invece io preferisco avere la mia penna, le cose lì, eccetera, eccetera. Comunque, relativamente veloce, ecco, non c'era tantissima gente come la volta che ci sono andato senza prenotazione, che c'erano tutti quelli dei paesi. Io mi sono prenotato col sistema delle poste, Robè. Ho scelto io il giorno e anche l'orario per il cui sono voluto andare. Sono andato all'1:10, dunque secondo me uno degli orari migliori, perché a quell'ora lì c'è tanta gente, va a pranzo, per cui c'è meno affollamento. Poi nonostante che dentro all'interno ci saranno state almeno 500 persone, però ti posso garantire che fanno talmente in fretta che io sono rimasto veramente meravigliato della velocità di questo sistema al cupe di Orobè. Vabbè, chi lo vuole fare? Beh, è meglio farlo, guarda, quando era, non so se ieri con Giulio stavamo parlando di questa cosa, proprio siccome avevo fatto il vaccino il giorno prima, l'avevo detto a Giulio, se anche lui c'ha la cicatrice di quello fatto da bambini, no? E quindi la curiosità mi ha portato a sapere un po' la storia di quel vaccino, che era negli anni, subito dopo la guerra, quindi negli anni 48-50, che tutti i bambini le facevano questo vaccino, che era quello contro il vaiolo e contro anche la polio. E ho letto che ha provocato tante vittime nei bambini, quindi purtroppo gli effetti collaterali ci sono, c'è poco da dire, per qualunque tipo di vaccino. Quindi lì erano ancora più forti, però guardando adesso, nel 2000, dal 2000 per gli Stati Uniti, 2002 per l'Europa, la polio non esiste più, il vaiolo è sconosciuto praticamente, tanto è vero che i vaccini si fanno solo in zone proprio veramente dove non c'è igiene, dove in posti assurdi e dove te lo becchi. Però in Europa praticamente il vaiolo, da quando c'è stato il vaccino, è sconosciuto. Eppure molti bambini sfortunati ci hanno rimesso le penne, tutto lì. Il rischio c'è sempre, ma per qualunque cosa. Non sto parlando di rischio, naturalmente anche se prendi l'aspirina gli effetti collaterali ci sono, non sto parlando per quello, io sono per altri motivi, non per quello. I vaccini, quelli che sono importanti è giusto che vengano fatti, e quelli che non servono a niente è assolutamente al contrario io. E questo secondo me è uno di quelli. No, vabbè, ci sono evidenze scientifiche, ma guarda l'Inghilterra. L'Inghilterra l'ha battuto, l'Italia nel giro di un mese, guarda quanto siamo scesi, cioè eravamo 400 persone morte al giorno, non è una cifra, in altri paesi erano anche a 1000, qualcuno anche a 2000, insomma sono state abbattute, il merito è tutto del vaccino, non è certo, insomma poi ognuno ha le sue opinioni, per carità del cielo, però che così lo fa, ecco, la scienza è conoscenza soprattutto. Chiaro, è un argomento troppo vasto, saremo ore e ore parlando, perché ti posso dire tante di quelle cose che tu dirai esattamente il contrario di quello che sto dicendo io. Ti è presente che l'anno scorso vaccini non ne ha fatto nessuno, ti dico solo una cosa, noi da maggio c'è stato un calo esorbitante dei cosiddetti contagiati, perché se tu c'hai l'influenza c'hai il Covid secondo questi signori qua, le morti sono diminuite in un modo esponenziale, guarda caso poi a ottobre quando aumentano i cicli dell'influenza aumenta anche il caso di Covid. Questa è la stessa cosa, che cavolo c'è tra il vaccino? Il vaccino è una cosa ridicola, perché il vaccino è quando ti iniettano una malattia, quello è un vaccino in forma ridotta e tu ti fai gli anticorpi per quella malattia lì. In questo caso non ti stanno iniettando nessuna malattia perché non l'hanno isolato, primo caso. Secondo caso ti stanno cercando di stimolare gli anticorpi, eventualmente se dovessi prendere un virus c'hai delle protezioni, hai stimolato delle cose. Per cui stai facendo una cosa che ha un tasso di mortalità talmente basso, non parliamo degli anziani, che era relativamente alto come poteva essere una qualunque influenza, nei ragazzi diciamo fino ai 30-40 anni il tasso di mortalità è 0,000 eccetera, e tu mi obbligi a fare un vaccino, ma stiamo scherzando? Per cui chi se lo vuol fare è a rischio e pericolo, non parliamo di effetti collaterali, gli effetti collaterali ci sono di tutte le cose, anche se ti mangi un uovo fritto ci può avere qualche problema e poi morire mangiando un uovo fritto, per cui qua stiamo parlando di altre cose, però è un'opinione mia rispetto a quella degli altri, io assolutamente contrario, non ne farò. E io dico che se questa è una tua convinzione è giusto così, perché chiedo scusa a Giulio e anche a Natalino, è giusto che sia così, perché innanzitutto non è un obbligo, quindi se non lo vuoi fare semplicemente non lo fare, tutto lì. Io ti posso, così come l'ho raccontato a Giulio, raccontare un'esperienza di una ragazza che non era diciamo scettica, era molto di più, ha detto, questa qua addirittura diceva, io mascherina non me ne metto, mi devono costringere con la forza a metterla, non si è messa la mascherina, giovane, non stiamo parlando del vecchietto o della vecchietta nella casa di cura, giovane, trovare sana, eccetera, eccetera. Questa ragazza, che è un'amica di un mio collega, praticamente, diciamo, sono tutte fantasie, sono tutte bugie, non è morto nessuno, addirittura arrivando a questi estremi, anche negando l'evidenza dei fatti. Comunque, la storia è questa. Questa è stata male, è stata portata in ospedale, i sintomi sono sempre quelli, febbre alta, mancanza d'aria, eccetera, eccetera. E di lì, siccome questa non ci credeva e quindi ha fatto la scema, ha detto sarà questa influenza, non me ne frega niente, non ci vanno neanche in ospedale. Ci hanno dovuto portare, credo, i genitori, gli amici, non so. Fatto sta, appena arrivato in ospedale, questi si sono trovati in una situazione di dire che cacchio facciamo, perché se ne intubiamo la uccidiamo, perché era talmente debole che intubare una persona in quello stato significava ucciderla. Quindi è stata roba di due mesi e mezzo, credo, in terapia intensiva, imbottita di tutti i farmaci possibili e immaginabili, e l'hanno recuperata, guarda, più per miracolo che per altro. Di Sassari, stiamo parlando di Sassari. E questa ragazza, alla fine il medico le ha detto, guardi, lei dovrebbe accendere non una, ma più di una candela, perché stavamo già noi perdendo la speranza, stavamo per interrompere, se l'avessimo intubata sarebbe morta subito. Quindi fa la prima chiesa e accende più di una candela. Questa è la storia, e poi ce ne sono tante altre che ovviamente però non sono di Sassari, ma sono da altre parti. Quindi comunque obblighi non ce n'è, perlomeno per chi fa lavori normali, eccetera, poi ovviamente i sanitari è giusto che ci siano. Tutto lì, scusando la replica, riprendi Giulio. Okay. Sì, ma ognuno chiaramente ha adesso vedendo, ci sono dubbi, questo è vero, però io dico che secondo me conviene farlo, perché se l'hanno proposto il mondo intero, vuol dire evidentemente che è una cosa che si deve fare. Poi chiaramente, come tu stesso stavi dicendo, anche mangiando un uovo uno può morire, certo che può morire, però il discorso è questo. Prendiamo ad esempio noi, quel presidente Johnson, quando ha iniziato il virus, ce l'aveva contro l'Italia, dice che sono tutte soffiate, il virus non esiste, mascherine non le mettete, prima era lui, eccetera, eccetera. Poi sta preso il virus, ma l'hanno ricoverato e al momento ci rimane. Vabbè. E il discorso è questo, poi chiaramente ognuno ragiona con la sua testa. Avanti, vabbè. Allora, io non ho negato la presenza del virus, come ce ne sono miliardi di virus, in circolo, nell'aria ce ne sono milioni, non centinaia, milioni, diversi tipi, ci sono quelli più virulenti, quelli più aggressivi, eccetera, eccetera. Se voi guardate gli ultimi 30 anni, anche 40 anni, dal 1970, guardatevi le statistiche di quante persone muoiono di influenza. Ci sono stati dei picchi di influenza, nel 1970 c'è stato il picco assoluto di influenza, è stato molto aggressivo, sono molte migliaia e migliaia di persone. Nel 2015 sono morte più persone che nel 2020. Verificate quella roba lì. Considerando che qualunque persona può morire di influenza, anche che non sia il Covid, può morire comunque, ne muoiono tantissime di queste persone. Io ho, come hai detto tu, un amico mio che era giù a Ponte di Legno, lavora lì nel coso, come si chiama, dove fanno le attività sciistiche, eccetera. Stava male, si è trascurato, l'hanno portato in terapia intensiva, è stato un mese in ospedale. Io mi sono preso la broncopolmonite, sono stato a casa e me l'hanno scoperta per sbaglio, c'era mia cugina che stava controllando, mia figlia è venuta così, dice ma a te ti voglio sentire il respiro strano, mi ha contato che sono stato 21 giorni chiuso a casa, i primi 3 giorni ho detto no che grebo, perché era una cosa allucinante. Se uno viene curato tempestivamente, le medicine adesso esistono, la tassa di mortalità è talmente bassa, ma che non hai altre patologie, io come faccio a iniettarmi una sostanza nel caso mi dovesse venire quella roba lì, che è una malattia che tra l'altro si può curare benissimo. Io sfido a trovare una persona sana che sia morto, qualcuno è capitato, come può succedere per altre cose, qualche giocatore, qualche politico, qualche personaggio storico. Io ho visto delle persone che sono state curate in 2 giorni con delle terapie giuste e sono state tranquille. Le curi con le giuste terapie. terapie e si guarisce. Il tasso di mortalità era riferito alle persone con patologie anziane, che sarebbero morte comunque con qualunque influenza, in questo caso l'aria era più aggressiva. Per cui poi non parliamo del discorso dei vaccini, che è una bigliata da mare mondo, ma no, perché prima ti fanno vedere, devono tenere a 80 gradi sotto zero qua, e poi li vedi e te li lasciano sopra il coso, il tavolino. Hanno raccontato tante di quelle balle, hanno detto che hanno fatto 30 milioni di vaccini in Italia, metà della popolazione, ed è una grande balla. Cioè a noi ci raccontano le balle che vogliamo e noi ci crediamo, e questo qua è il discorso. Se noi ogni malattia ci dovremmo fare il vaccino, non so quante malattie esistono, ci sono delle malattie tipo la malaria, il colera, l'ebola, eccetera eccetera. Se ogni malattia volevo fare un vaccino, alla fine diventiamo pieni di coso, di farmaci. Io se ho i sintomi e ho dei problemi vado e mi curo, esistono le malattie, non posso curare una cosa che non ho, che probabilmente mi sono anche preso, come si dice che il 95% della popolazione se l'è già presa questa malattia. Ma se io non ho sintomi, in tutti i libri di medicina i dottori succudano le malattie, no, una malattia probabile che ti potrebbe causare un qualcosa. Se mi viene la malattia, esiste la medicina, io la vedo così, poi ognuno fa quello che vuole. Adesso stanno dicendo il coso di gregge, questo fatto dei vaccini, i bambini dai 12 anni li vogliono mettere con questo cacchio di coso, di vaccino, ma dove stiamo arrivando? Alla fine diventeremo dei coso, delle cavie. Per quello che io sono contrario, poi ognuno vuole fare quello che vuole. E ci mancherebbe altro, la dice la Costituzione è quella. Riguardo all'altro che ha detto, io ti posso smentire in qualunque momento, perché proprio a causa del mio lavoro, anzi, ti dico che mi hanno imposto anche di fare un corso sulla prevenzione, eccetera, perché è obbligatorio, perlomeno per noi. E ho parlato con gente che degli infettivi praticamente, quindi non c'ha nessun interesse andare a dire che è innocuo, che non è innocuo, e queste cose che hai detto tu, ecco. Quindi è gente che ci lavora ogni giorno con grande sacrificio e con anche grandissimi rischi, ed sono gli stessi personali che hanno curato l'ebola, non so se te lo ricordi, a quell'infermiere italiano che era in Africa, che si è preso quell'altra bella malattia. Quindi ripeto, io rispetto il tuo giudizio, perché in democrazia è doveroso farlo, anche se non sono assolutamente d'accordo su quello che hai detto, perché in certi tratti addirittura fantasioso, ecco, oserei dire. Però, come hai detto tu, ognuno può fare assolutamente quello che le pare, non c'è problema, ecco. Tutto lì, ognuno è padrone del proprio corpo. Riprendi, Natali. E poi bisogna anche avere i farmaci per curare certe malattie. Questo qui, quando è arrivato il virus, manco i farmaci avevano, quindi di cosa stiamo parlando? È pericolosissimo questo virus, altro che, ha ragione Gianfranco. Io lo so cosa vuol dire essere intubati, a me mi hanno intubato quando mi è giunto la pancreatite. C'ho anche la fotografia, te lo faccio vedere come sono intubato. Natali, nessuno sta negando che sono morte delle persone, ma muoiono comunque, sarebbero morte comunque, e durante l'anno di influenza muoiono migliaia e migliaia di persone, e sono quelle persone più deboli che hanno dei problemi, eccetera eccetera. Se una persona è sana, il tasso di mortalità è molto ma molto limitato. Io non posso fare a un ragazzino di 12 anni sano iniettargli una sostanza, che tanto questa sostanza non si sa cosa può creare tra 10, 15, 20 anni, perché si dicono tante cose e non è detto che siano vere, ma possono anche essere vere queste cose. Per cui come faccio io a iniettare una sostanza dentro una persona e non so gli effetti che potrebbe creare tra 10 anni, tra 15 anni, quando ci saranno dei figli, quando ci saranno dei nipoti, cosa può succedere? Se ne accorgi dopo decenni cosa può succedere? Per cui io devo iniettare una sostanza, io diciamo non sono un ragazzino, ma fare iniettare una sostanza a un ragazzo in età fertile di 15, 16, 17 anni, iniettare una sostanza che non ne ha necessità l'organismo, tra vent'anni dopo si sposa, eccetera, eccetera, cosa ne sappiamo? Cosa succede agli eventuali figli che avrà? Non gli può succedere niente, però c'è sempre una probabilità che succeda qualcosa, perché statisticamente non c'è niente nella nomenclatura, diciamo, nella medicina, nel libro della medicina. Per cui, perché io mi devo iniettare una cosa se non ho sintomi e non ho nessun problema? È come che io adesso mi devo fare il vaccino contro la malaria. Se io non mi devo andare in Africa, dove c'è la malaria, non me la faccio. È quello il discorso. Il problema è che qua loro ti dicono il vaccino non è obbligatorio, però è come che sia obbligatorio, perché ti costringono. Se io devo andare fuori a fare qualcosa, a spostarmi, ce l'ha il vaccino? Oppure c'ha un certificato che tu non hai avuto nell'arco di 48 ore dei contagi e cose del genere? I contagi sono tutte questioni fasulle, perché hanno dimostrato che quando ti fanno il test, di questi test l'affidabilità è pressoché zero, perché hanno dimostrato, prendendo degli elementi che non c'hanno niente a vedere con l'essere umano, il risultato è positivo. Non esiste la certezza, a meno che non ti fai un esame dettagliato, ma con questo cacchio di tampone, cosa del genere, non hai la certezza che quello lì sia affidabile, che sia positivo o negativo, perché hanno dimostrato con due test diversi, uno era positivo e l'altro negativo. E qua chiudo il discorso, se no ci vogliono giorni per parlare. Ma ognuno la pensa come vuole. Io già me l'ho fatto il vaccino, mi farò anche la seconda dose, perché io sono a rischio. Posso concludere l'ultima cosa? Beh, così la finiamo il discorso, scusate un attimo. Prego, faccia pure. Allora, io dico solo una cosa, se noi avessimo la certezza, diciamo io mi sbaglio completamente, la certezza che tu mi dici io ti faccio il vaccino e ti do tutte le libertà che avevi prima, puoi uscire quando vuoi, non puoi usare la mascherina, puoi baciare la fidanzata, puoi fare tutti i cavoli che ti piace, io dico sì, io posso farlo, a quel punto ho la possibilità di farlo. Purtroppo questa possibilità, tutti i vaccinati, non cambia assolutamente niente, perché a luglio, sino a luglio, dobbiamo tenere la mascherina, e qui lo dico e qui lo ripeterò se ci sentiremo più avanti, a settembre, ottobre ci sarà la stessa cosa che abbiamo subito adesso. Io l'ho detto da marzo dell'anno scorso, attenzione che ci faranno fare il vaccino, poi il vaccino, prima era una dose, adesso sono due, adesso non bastano due, ne stanno parlando di terza dose, di terzo richiamo ogni sei mesi. Diventerà una cosa con una consuetudine che ti devi abituare a farti il vaccino, e non cambierà niente, perché ve lo dimostrerò, i virus sono continuamente nell'aria, le mascherine sono inutili perché è dentro l'aria, per cui la mascherina ti entra dentro la pelle, il virus non entra dagli occhi, da qualunque parte. Con le mascherine che abbiamo e che utilizziamo non servono assolutamente a niente, ti devi entrare in un ambiente sterile, sigillato, alimentazione come si chiama, ossigenazione autonoma, respirazione autonoma, chiuso dentro uno stagno, dentro uno scaffando. In quel caso lì forse riesci a evitarlo, poi ti devi far sigillare in un ambiente sterile, disinfettare, sanificare tutto, però noi ci mettiamo la mascherina, ce la togliamo, tocchiamo con le mani, facciamo questo. Il virus è nell'aria, è dentro di noi, non possiamo fare niente, dobbiamo solo sperare che non si aggravi la situazione organica dell'uomo, se qualcuno si aggancia è come quando ti viene una malattia più grave, a quel punto bisogna stare attenti. Però esistono anche le medicine se vieni curate in tempo. Guarda, tutti i giocatori, io vi sfido a trovare un giocatore, un atleta che abbia subito dei problemi, li hanno curati immediatamente, la maggior parte non hanno avuto sintomi, erano positivi. Quelli che hanno avuto sintomi, io conosco persone che hanno avuto sintomi, ma anche abbastanza gravi, 15 giorni, persone che conosco molto vicine a me, 15 giorni senza olfatto e gusto, proprio vero assoluto, li hanno curati, piano piano è tutto andato a buon fine, è una persona tranquilla e sana. Certo, conosco persone sane, cioè sane, con delle altre patologie che sono morte, e purtroppo succede, ma sarebbero morte comunque con altri tipi di influenza, magari non meno virulenta di questa, per cui il discorso io lo chiudo qua, poi vedete voi. Posso rispondere? Assolutamente. Sì. Guarda, allora io ti dico che in tutto il ragionamento che hai fatto ci sono molti errori, sia da parte scientifica, sia sul lato scientifico, sia anche sul lato che persone giovani non sono morte. Questi sono degli studi in riviste autorevoli, mediche, anche se non sono di uso comune, ma sono a uso medico, quindi non penso che un comune mortale, a meno che non sia molto curioso, non vada a leggerle. Ci sono testi sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Allora, innanzitutto ci sono molti esempi di persone di sana e robusta costituzione che sono morte. Uno che ti posso citare, che è stato tra l'altro che ha suscitato anche un pochettino di meraviglia, è stata proprio una delle guardie del corpo di Conte, che è morto a causa di Covid. Eppure era un pezzo d'uomo grosso, in ottimo stato di salute, ma ci sono tante testimonianze di persone assolutamente sane. E il virus oramai è ben inquadrato in un arco di virus ben preciso scientificamente, che sono i coronavirus, perché il coronavirus non è solo questo virus qua che è definito coronavirus 19, ma appartengono a una grossa categoria di agenti infettivi. Quando tu dici che il medico ti deve garantire, io ti inviterei a leggerti solo, quando Natalino sicuramente capisce al volo quello che sto dicendo, poco prima di fare l'operazione, il giorno prima, ti danno un malloppo di fogli in cui, per abbreviare la cosa in parole povere, ti dice: la medicina certezze non te ne dà, per un semplice motivo, che non te ne può dare. Non ci sono certezze che un'operazione vada bene, non ci sono certezze che un vaccino ti salvi la vita. Non ce ne saranno mai, perché in un arco di categorie c'è quello che le funziona benissimo e c'è quello che le funziona un pochino meno. Magari le salva la vita. Una cosa è certa, che chi si becca la malattia, contrariamente a quello che hai detto tu, secondo uno studio inglese fatto, gli inglesi ne hanno pubblicati un bel, secondo lo studio fatto in Inghilterra, pare, è confermato anche in Germania, in Francia, in Italia, i successivi studi praticamente hanno detto che che anche sui guariti questo virus lascia tracce di danno organico. Tanto è vero che sicuramente, ti faccio l'esempio che ho fatto prima di questa storia di questa ragazza, se questa ragazza andrà tra qualche mese a farsi degli esami, scoprirà, così come tutti i pazienti che sono stati in terapia intensiva, che avrà problemi di difficoltà di respirazione, possibili problemi cardiaci e anche problemi ossi, cioè tutta quella fascia di segni che lascerà traccia, nel senso. Certo non avrà, si spera che non morirà, perché, però saranno patologie che renderanno una persona invalidante, cioè invalida. E questo te lo possono dire tutti, anche ho sentito, non so se era Mina o Piochiera o Milva, non mi va, credo che sia morta, forse la Vanonia, che ce l'ha avuta, ha detto: ma è normale che io sia dolore? Sì, è normale, è una caratteristica tipica che lascia questo virus, quindi ti lascia del consenso. Fermo restando sempre il discorso che ognuno è libero di fare quello che vuole. Quindi se poi uno Stato, un insieme di Stati, un insieme di nazioni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce che uno non si può spostare se non fa il vaccino, uno non si sposta, punto. È tutto lì. Vabbè, è un discorso troppo ampio, ti ripeto. Io parto dal presupposto che tutti i virus possono essere potenzialmente pericolosi. Ci sono dei virus più aggressivi, in questo caso questo è molto aggressivo, però se all'inizio avessero fatto quello che dovevano fare, cioè una minima autopsia, cercare statisticamente le percentuali di persone per cosa sono morte, eccetera, eccetera, avrebbero utilizzato altri tipi di terapie, anziché morire tante migliaia di persone per terapie sbagliate. Non so se vi ricordate il periodo delle cose, degli ossigenatori, dei ventilatori, eccetera, eccetera. Quanta gente è morta per terapie assolutamente sbagliate. Se avessero autorizzato a controllare perché sono morti e per quale tipo di patologia sono morti, molta gente si sarebbe salvata, come si è salvata e come ne è morta molto, ma molto di meno successivamente nell'anno 2021 rispetto all'anno, ai primi mesi del 2020, quando è successo tutto il dunque. E qua chiudo il discorso. Perché sennò sarebbe una cosa troppo lunga. Io non sto negando che il virus non sia pericoloso, assolutamente, come può essere pericoloso una qualsiasi influenza. influenza nel 1970 sono morte decine di migliaia di persone in Italia, perché è stata un'influenza talmente aggressiva, non parliamo della spagnola eccetera, di lì non esistevano le medicine. Nel 2015 sono morte più persone che nel 2020, guardatevi le statistiche. Il discorso di adesso, qualunque persona muoia, di tutte le persone, se aveva il Covid, è morto di Covid, non è detto che poi quella persona è morta. Io ti porto nome e cognome di una persona, carissimo amico mio, cognato, è morto all'ospedale San Martino di Genova, morto di aneurisma cerebrale, è stato 15 giorni in coma, l'hanno messo come certificato di morte che è morto per Covid. Una cosa è essere morto col Covid, un'altra cosa è morto di Covid. Tu non fai l'autopsia per vedere che quello è morto per quel motivo lì. Hanno aumentato di tantissimo i casi di morte, però la gente muore, muoiono decine di migliaia di persone ogni anno, è normale che muoiano le persone, però tutte le persone che muoiono, è possibile che siano tutte quante morte di Covid e non ci sono tumori, non ci sono leucemie, non c'è più influenza, non c'è più broncopolmonite, non c'è niente. Tutti quelli che sono morti ogni volta che c'è, e chissà perché è morto solo di Covid, col Covid devi dire, non di Covid, sono due cose diverse. E poi io non voglio fare polemica, ognuno la vede come vuole. Io dico sempre, io mi curo una malattia, quando c'ho un problema mi curo, non mi posso curare una cosa che non ho sintomi, e qua chiudo il discorso. Poi ognuno può decidere di fare quello che vuole lui. Io la prima bella che hanno raccontato, questi vaccini ci volevano meno 80 gradi per tenerli congelati, venivano, io adesso li vedo all'aria aperta, li prendono e li fanno, e quella è la prima balla. Seconda balla, hanno detto la settimana scorsa che hanno fatto 30 milioni di vaccini, in Italia siamo 60 milioni, metà della popolazione secondo loro ha fatto il vaccino, assolutamente non è vero, sono numeri completamente sballati, perché io, guardiamo la mia famiglia che hanno fatto il vaccino, siamo 3 e siamo una decina di persone, come fai a dire che tu, tutti i giovani, sino ai 50 anni in giù la maggior parte non hanno fatto il vaccino, come fai tu a dire che è metà della popolazione, perché in questo caso 30 milioni è metà della popolazione, a dire che ha fatto il vaccino? Sono le balle che ci sparano i giornali. E poi ripeto, io non sono complottista assolutamente, io ci credo che esista, è morta tanta gente per il Covid, però non è morta in modo esclusivo come stanno dicendo loro. Io ho notato una cosa, certificato e visto fisicamente e provato, che sono aumentati i casi di depressione giovanile, quella è molto più pericolosa del virus di Covid, perché la depressione giovanile è aumentata del 500%, statisticamente dimostrato, non a parole, statisticamente i farmaci antidepressivi sono aumentati, la vendita del 500%, poi non tocchiamo il discorso economico, se no finisce tutto. E io, per il rischio di prendermi una malattia probabilmente pericolosa, perché è da dimostrare fino a quanto è pericolosa per le persone sane, mi devo fare il vaccino, così, per quale, e poi non parliamo di tutto quello che hanno creato. Qui, vedete voi, avanti dopo Gianfra. Aspetterebbe Natalino, e Natalino riprendi. E dai, riprendo per chiudere, perché mi hanno chiamato, dai, ci sentiamo alle prossime. Ok, vediamo Giulio. Scusate, io ho monopolizzato, scusate. Roberto for presidente. No, certo for presidente, io mi arrabbio perché io vedo quanti giovani, e ti porto nome e cognome di persone che si sono ammalate di depressione, ragazzi di 13-14 anni, di genitori disperati per questa cosa qua, che li hanno chiuso in casa, hanno fatto cose che sono andati i carabinieri in casa mia, amici carissimi miei, i figli giovani di 13-14 anni sono usciti di testa, gente che ha avuto degli infortuni gravi, di gente che conosco io che hanno fatto delle cose di autolesionismo. Queste cose non le guardiamo, questo ci dobbiamo preoccupare, no di un ragazzino perché non lo puoi fare andare a scuola perché probabilmente si può contagiare, che magari è già contagiato 10 volte, se è contagiato, e noi lo obblighiamo a farci un vaccino e chiudiamo una popolazione che abbiamo creato, tante aziende chiuse, tanti fallimenti, tanti suicidi, sapete quanti suicidi sono aumentati? Andate alla questura, io ho amici che lavorano di dentro, non dicono niente, quanti suicidi sono aumentati, non li possono pubblicizzare perché sennò sarebbe una cosa troppo grave, e io mi devo preoccupare di fare il vaccino, di quello e là. Io penso alle cose reali, io vedo la gente che sta morendo di fame, queste cose ci dobbiamo preoccupare, no di questo cacchio del vaccino che è una questione economica creata da certe industrie farmaceutiche. Io l'ho detto da marzo dell'anno scorso, ci faranno fare il vaccino, non è così, vedete quello che ho detto si è avverato, io l'ho detto da marzo, ho avuto discussioni nella famiglia mia, molti se l'hanno già fatto il vaccino e sono assolutamente contrario a quello che dico io, però io ragiono con la testa, non ragiono quello che mi dicono alla televisione, e guardo i fatti reali, io vedo le persone che stanno male, tutti i locali chiusi, ristoranti, pizzerie, impianti di coso, di sci, che non ho preso neanche una lira, dice diamo i soldi qua, ma che soldi? Io sto parlando con il mio parrucchiere, lo sai quanto gli hanno dato da quando sono chiusi? 1.000 euro, stiamo parlando di 1.000 euro, dall'anno scorso a quest'anno ha ricevuto 1.000 euro, e cacchio, noi non guardiamo ancora, adesso sta morendo di fame, non hai soldi per mangiare, ci preoccupiamo di questa possibilità di che ti venga il Covid, e beh, mi viene il Covid, io me l'avrò anche già preso il Covid, e quindi se mi viene mi curo, esistono le medicine, non è una malattia tipo il tumore, il cancro, la leucemia, che sono cose pericolose che si può morire, in questo caso se tu intervieni preventivamente non succede niente. Io vi informo che dovrò interrompere bruscamente perché sono in attesa di pizza, quindi se arriva vi saluto già preventivamente. Poi ripeto, mi pare di averti già risposto in maniera abbastanza chiara su come la penso. Molte di queste informazioni che dato sono scientificamente inesatte. Io ho visto i picchi ufficiali sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sia quelle stilate dal nostro ministero, e se vedi i grafici ti metti le mani in testa, ma di gente realmente morta proprio di infezione. Poi non capisco che differenza ci sia, uno anche con gravi patologie cardiache può arrivare tranquillamente agli 80 anni, certo se le aggiungi un colpo in testa mi sembra che la persona muoia. Adesso che sia di Covid o sia di colpo in testa, la patologia cardiaca viene solo aggravata dal colpo in testa, se permetti. Poi, ripeto, ognuno è lasciato libero di fare quello che vuole, quindi la maggior parte della gente fortunatamente ha capito che ci troviamo di fronte a un'emergenza storica, così come è stata storica la famosa spagnola, che anche lì è stata diffusa per teorie bislacche, soprattutto di un colonnello, che comandava il reggimento dei Ranger negli Stati Uniti, le morivano giovani di 20 anni davanti, diceva chissà cosa hanno preso, magari hanno mangiato qualcosa, fatto sta che ce l'ha mandato in Europa e ha combinato quello che ha combinato. Quindi attenzione, perché con le epidemie non c'è da scherzare, quando c'è un'epidemia è sempre difficile capire come agire, anzi bisogna prendere atto che questa volta grazie alla scienza e alla tecnologia si è riusciti a fare rapidamente quello che i nostri nonni purtroppo non hanno potuto avere. Tutto lì, mi sa che sta arrivando la pizza, devo salutare, buona serata a tutti e buon proseguimento. Ciao anche Marco. Ciao, già avremo modo di continuare, questa conversazione non è troppo lunga, ciao. Buon appetito, buon proseguo di serata, vai Marco. Sì, scusate l'ingresso a gamba tesa, signori, anche io sto per mangiare, oggi pranzo un pasto unico, vista l'ora tarda. Io un po' la penso come te, c'è troppo un giro di soldi dietro, quindi non dico che non ci sia un'emergenza, ma che è stata ingrandita d'arte, ci sono miliardi e miliardi e miliardi di euro, di dollari in ballo, decine di miliardi e chissà quant'altro. Ciao Gianfranco, buonasera, buona pizza. Stavo seguendo un po' il discorso tra un fornello e l'altro e mi stava appassionando. Non so chi ci sia. Vabbè, Robè, come gira? Sto bene, sto tranquillo. Sì, diciamo di sì, dai. No, vabbè, sono un po' eccitato, diciamo, non dico alterato, perché quando sento questa conversazione io ho le mie idee, però purtroppo di questa cosa ne hanno amplificata troppo, perché tu non puoi dire, ti ripeto, cognato di un amico mio, morto per problemi cerebrali, ha avuto un ictus, in parole povere, dai, è morto, è entrato in coma, una persona, diciamo, abbastanza sana, non era neanche fumatore, tra parentesi, è morto di emorragia cerebrale, è rimasto 15 giorni in ospedale a San Martino di Genova, non posso darti nome e cognome, quando nel certificato di morte hanno indicato che è morto di Covid. L'altro cognato, morto a Ploaghe, è morto di infarto, hanno chiesto l'autorizzazione ai figli se potevano scrivere che era morto di Covid. Vediamo quanto prendono se c'è una persona morta di Covid come patologia in un ospedale privato, lo sapete? sapete voi quanto prendono, informatevi solo di quello. Quando tu scrivi che c'è tre pazzetti di Covid, oppure non è neanche uno, chiedete un pochettino cosa danno di soldi, per forza anche è normale che queste statistiche vengano aumentate, perché una cosa è morire di Covid, ne sono morti tanti, come ne muoiono tanti di influenza di qualunque genere, ogni anno di più o di meno. Non puoi scrivere che una persona che ha un coso, una epatite gravissima, delle alterazioni di coso, di sul sangue, sul metabolismo e cose del genere, si prende il Covid e è morto per quel motivo lì. Non è così, perché io conosco persone che sono morte, avevano la leucemia e poi sono morte, cioè è morto di Covid. No, non è così, quello c'aveva la leucemia gravissima ed è morto perché c'aveva la leucemia. Il Covid magari gli avrà dato anche deteriorato ancora di più i problemi, però sarebbe morto comunque. Lei una cosa un po', sì, poi il fatto che i giornalisti non parlino assolutamente di quello che c'è dietro, dei drammi delle famiglie, è grave. Ah, mamma chiama, parlano solo i vaccini tutto il giorno, è come un lavaggio del cervello, vaccini, vaccini. Poi a parte i medici e scienziati, Robbe, hanno detto tutto il contrario di tutto, dall'inizio fino a oggi, tutto il contrario di tutto, Burioni compreso. Quando diceva che non sarebbe arrivato il virus in Italia e tante altre cose, insomma, vabbè, mamma chiama, devo staccare all'istante. Buona serata a tutti, chiunque sia sul canale, ciao, ciao. Lia, ciao, anche io sto qua. Adesso vado a preparare la serata. Ciao a tutti e eventuali amici qua in ascolto. Canale 10, buonasera, cuori te da parte mia. Ciao, ciao a tutti, ciao. C'è qualcuno? Chi è? Avanti. C'è il basso in modulazione. Ehi, sali in modulazione perché non ti sento bene. Guarda adesso. Avanti. E allora? E allora, sto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Le pizze stanno arrivando, sì. No, non ne ho preso stasera di pizze. Anzi, me la sono mangiata lì a Predagnedda. Eravamo lì, ci siamo fermati lì. È andato vento, è andato benissimo. Nulla. Aspetta, stacco. Ma sta fischiando, sta? Sì, che cosa amara, Mari? Stacco, adesso deve sapere che ci sia testa con l'altro. Scappa. Ma se per la pena sei a posto. Va bene tu? Sì, già va bene. Ok, dai. Ma ci vedi dopo perché ci ho dei apparecchi accesi che stavo ascoltando, dai. Oh, io la chiudo è fatta, una passata di coda, molto zappa, aiutato. C'ho le braccia a pizza, manca già finito e basta. Eravamo a panini in varia. Ci sono di driureggia. C'ho le braccia a pizza, guarda, c'ho le braccia. Io ho usato il respiratore e poi il motore zappa, gli ho venito, boh, basta così, è tutto pulito, ho terminato tutto. Capa, come mi aveva detto una cosa tuo fratello prima, la buonanima, dici che lei mi ha tagliato la moglie, che è o no? Usava, l'aveva comprato il, no, già è vero, sì, usava, l'ha comprato il vasaerba, l'aveva comprato, anzi, il vasaerba. E aveva fatto il prato verde, capito? Lei prendeva il tempo libero e lo passava, e per passare il tempo, capito? No, c'è Mario il suo coesente. No, dici proprio che pigliava il cespugliatore, perché un giorno gliel'avevo visto, e di raggio bussato da appena da un meccanico. E dice, io non è forza, lo faccio mia moglie, dimmi. Già è vero, sì, non è da tavolo. Tutto mia cognata lo faceva, sì, c'ha ragione. Tutto lì, non lo so se è Antonio, perché le piaceva lì, capito? Le passava il tempo e così via. Quindi faceva un pezzo oggi, un pezzo domani, ho preso. Non faceva nulla. E Ah, mi sa che la pazia. La pazia è da Matteci. E la miscela io facevo lei e lui. E io si pulsava, si pigliava una tazza di birra e stava zia la faccia lei, da un primo. E da poi fatto. Sto scherzando, là. No, comunque usava, c'è ragione, usava lei. Tutto lei faceva, no, lui non dice, non si abbia cartato, oh, 0.0. Scappa. E dopo vazia con le bombole bu. Esatto, esatto. No, io già faccio un pezzo oggi, un pezzo domani, beh, ho terminato stasera, guarda, domani sera, cioè dopo pranzo, ma dopo pranzo, al fresco, le faccio, l'ho passata in moto zappa dove mia moglie ha piantato qualcosa, gli rigiro la terra nuovamente. Un'altra girata e ho terminato, mi disabile in luce. Ciappa, ma tu beh. E la moto zappa di lampa di pratici si dà un pezzo in sana. Se chi sa manna da voi è ancora peggio, se ci dà un pezzo in trattarne. E io dicevo se la moto zappa la devi girare, capito? La devi girare per farla proprio. Invece non è come il coltivatore che ti esce il piano. La moto zappa devi proprio, la devi pigliare, la devi girare, la devi guidare tu, preso. Tutto qua. È pesante, pure braccia, uia, già tanto di meno, ma piano piano, un po' oggi, un po' domani, già passa. Beh, campa. Ma cos'hai, un bel manna, un minoretta? Io c'ho, ma 8 cavalli c'ho, 8 cavalli, dell'onda è. Non è minoretta, no? È già pesante, ma hai detto, è già pesante, sì. Avanti chi vuole entrare? Nessuno, avanti a tutti. Propaganda, appena. Chissà, è pesante, è maledizione. Ecco, dici spogliatore, ci dà un bel senso. A me mi fate, quando sono da tanto, mi fate tremurita, mi fate. Però non mi fate nulla, no, non me ne dà problemi di schiena, niente. Solo chi sta tremurita mi bigia. Perché vibra, capito? Anzo, vibra, anche a me lo fa. Vibra e dà problemi ai bracci, capito? Non lo uso la moto di tanto. Se lo usi spesso è un discorso, i muscoli, ma se lo usi una volta intanto, vibra e se ti ha problemi ai muscoli, capito? No, a me mi fa questa cosa qua, Mari, mi fa tremarella, mi fa un po', ma non è che non mi fa altro niente. Perché vibra e sembra così un casotto, capito? A me mi fa male le braccia, mi vibra le braccia, lo stavo usando e... E vabbè, piano piano, usato pure. No, ma il piccione è passato. Come tu, ho bisogno di tutto canto. Ma io il mio piccolino già va bene, quando uso ne metto il filo lungo e non raccolgo nulla e lo faccio proprio a polvere dato l'erba, perché taglio la sopra. E la pure sotto, la con tutta in terra, già fatti con cime. O tu vedi, lo guardi, sembra un prato verde, sembra. Cappa. Pure io già, ne taglio tutto. Cioè, allora così, non accogliono. E gli dirà la campagna? No, lo posso qualche volta in deposito. Mannaggia campagna. Ah, quel pezzo c'è il deposito, ho capito. Ma fai così, ma le braccia oggi, domani, vibra, non le vanno, ma a me mi stanno problemi, boh, c'ho una pietra da stendere e mi stanno problemi alle braccia, non le vanno, e vabbè, fatto vuole, dai. Forza, vivo. Facciamo un uomo, boh, 20 euro a ora, boh. Io farò, vabbè, lei lo so, se io faccio un po' oggi, un po' domani, piano piano, a pezzo non lo posso. E le posso un pieno, poi posso un pieno, poi le finisco, boh, poi di domani, ma poi continuo, capito? Scappa. La Sadisa ha fatto, per me non ha fatto nulla, perché c'era quello che è venuto a i vignocchi, è giunto, ha fatto il robetto di osso, da risie e mezzo di manzano, pensamento a ridere, cioè, per me il travaglio non ha se lo fazia io ne fazia il doppio, ne fazia. Cioè, a poi da cantidina si ha pigliato, dalle 6:30 di mattano. E dipende quando ha tagliato, capito? Dipende quando ha tagliato, non so. Il mio non è grande che lo va a tagliare, però ci vuole tempo suo, capito? Anzi. Anche se lo taglio, dagli, beh, ha fatto male, ma quella che mi lo pianti, devi tagliare piano piano, devi stare attento, se non spacci tutto. Poi sono la persona che è furba, che lavorare e ti butti un briso. Ma c'è spogliatore, può masticandomi, non vede niente. No, ha già visto che ho rotto. Sì, sono un bel dimmi, sì. Un bel niente, un dimmi, ne dà ne fate in bocca, ma armamento, si pone in ghiccio, che d'altro, io invece non uso neanche cinghia, lo meglio così, lo meglio. No, neanche io cinghia sto utilizzando, cinghia non le sto usando. A tu, senza l'amplificatore mi stai arrivando 9 più 20. Se attacco l'amplificatore arriva 9,40, figurati. Non sono tanto forte, la verità. Sto già andando ai fatti normali. Lo so, già mi sono accorto, ma non ti posso segnare. Adesso ho staccato l'amplificatore, appunto, 9,18, 9,20. Modulati, dai, già va bene, ultimo per la zuffa, dai. Vai, già vai bene, vai. Buonasera, ben stato. Ciao Marino, buonasera, e buonasera anche Antonio. Capa, scommetto che è più alto Franco, vero? Ma tu è più alto di altezza, è più alto di volume. Capa, hai detto 5 minuti, a vedere. Beh Marino, tutto a posto? Tutto ok, Fra, tutto ok. E tu, tutto bene, sì? Tutto a capa. Bene, mi stai ascoltando, quella per. Guarda, se c'è cosa, 9,30, se aumento, se schiaccio, arrivi mio a 9,40. Quindi va bene, anche la radio va bene, sì. Ottima, Fra, ottima. Ok, dai, andà bene. Ti contraccambio il tuo rapporto, 5,9 più 20, Mari qua. Già va bene, grazie Fra. Vediamo Antonio, Antonio accende la caffettiera, sta facendo il caffè Fra. E falla accendere là, così la fa scaldare un po'. Sì, io mi asse 10 minuti. Aspetta le pizze e poi mi chiamano adesso. Capa, chi è che vuole entrare? C'è qualcuno che voleva entrare. Adesso la caffettiera accesa. Ah, esitta che... devi casi ancora. Avanti Fra. Elia. E quindi Mari, tutto a capa? Si lavora, tutto a capa, un po' di casotto per gli orari, ma adesso piano piano stanno regolarizzando, piano piano. Adesso a 2 giugno è il nuovo parto, hanno preso già tutti i stagionali, adesso dovremmo entrare adesso numero 2 in stagionale e così via, piano piano. E già va bene così dai, l'importante è lavorare Mari. Hola chicos. Stai iniziando a scaldare Anto, mi sono accorto tu sei volpino sei Anto. Scaldando sta Mari. Facciamo scaldare. Bravo. Facciamo i bravi qua Hola. Mari, come sto arrivando lì? Lascia scaldare Antonio, 9,18 si è arrivato. Scalda la caffettiera, che Franco ti sta superando, sei un bel. Kappa, dai. Già per la casa, Emi. Antonio, siamo coperto, siamo coperto, non so chi è, ma siamo coperto. Franco è... No, non è Franco, c'è delle cose Franco non le fa, Franco arriva a 9,30 così semplice. Kappa. Oh, vai ciccio, già è andando già. Su che andiamo, avanti Fra. Già Mari. quindi lo passo a Antonio. Ma non c'è bisogno neanche di dirlo, fra. Io sto scendo con poche vatte. Modulato, guarda, la portata è fissa 9.20, modulato arriva anche 9.30. Modulato, figurati. Sì, già, diciamo che va bene così. Va troppo bene, e ben tu, su che andiamo? KK Marì. Adesso dovrebbe dare il massimo, com'è? Sì, è ancora il fatto. Lascia scaldare un altro poco. Non è salito il caffè, no? Già sta salendo il caffè, già. Piano piano. Ci vuole tempo su, altro, non hai capito? Buonasera, anche a lei. Vabbè, hai detto, grazie, buonasera. Non avete poco di scioppa? Altro che scioppa, Guarda che ti chiamo in questi giorni, Fiorellino. Quando sono in zona, ti chiamo e scendi e ti do la commissione, Guarda che non mi sono dimenticato, Ma scendi dove? Ma dove devo scendere? Sono 2 mesi che non abito più io lì, dove devo scendere?